America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests and fellow Americans. Barack Obama, avete sentito, era il discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente ha pronunciato appunto di questi tempi esattamente un anno fa. Questa sera grande appuntamento con la nazione, congresso in seduta plenaria, tutte le reti televisive nazionali interrompono i programmi per seguire questo discorso chiave del presidente americano alla nazione. E c'è soltanto quest'anno una piccola differenza, cioè il discorso resta importante, ma il momento politico per Barack Obama è difficile e tutti si aspettano che le sue posizioni non siano molto ambiziose. Perché? Perché ha delle elezioni non facili a novembre e quindi c'è uno scontro politico con i repubblicani che difficilmente gli concederanno qualcosa. C'è una speranza, e di questo sicuramente parlerà, che forse sull'immigrazione si possa trovare un compromesso. La vecchia legge sull'immigrazione che lo stesso George Bush voleva passare, poi non c'è riuscito, ma non ci saranno molte proposte nuove. Il presidente accennerà ad alcuni ordini esecutivi, dei decreti, che gli consentiranno di introdurre delle iniziative per soprattutto mitigare la diseguaglianza sociale. Ecco, c'è un'atmosfera un po' subdued, come si dice da queste parti, un po' sottotono, anche perché Obama esce da un periodo comunque non facile. Ha avuto dei problemi con l'Obamacare, ha fatto qualche scivolone di politica interna e quindi la linea è quella di un approccio più morbido. O con me ai microfoni di America 24 Federico Rampini, corrispondente di Repubblica dagli Stati Uniti. Buongiorno Federico. Buongiorno, eccomi qua. Allora, felice di rispondere. Eccoci Federico. Allora, ma intanto condividi questa idea che forse sarà un discorso più subdued rispetto al passato? Beh sì, condivido, anche perché che qui negli Stati Uniti è quasi un luogo comune affermare che il 2013 è stato un anno pessimo per Obama. I sondaggi lo hanno visto ai minimi storici, è considerato da molti come l'anno peggiore dall'inizio della sua presidenza, cioè del suo primo mandato. Certo, è abbastanza singolare, quasi incomprensibile, visto dall'Europa, che sia così impopolare un presidente che governa forse l'unica nazione al mondo che in questo momento ha un'economia solida, perché c'è una ripresa che dura ormai da tempo, a differenza dall'Eurozona. Ora che perfino le nazioni emergenti stanno conoscendo delle turbolenze serie, l'America sembra un'oasi di stabilità nella sua ripresa. E nonostante questo, però, è vero, è verissimo che il presidente attraverso una fase molto molto difficile. Uno dei problemi che ha avuto Obama è stato l'Obamacare, devo dire il paese è spaccato su questo, ci sono persone che a priori non ne vogliono sapere, c'è stato quell'incidente dei sistemi informatici per cui nessuno poteva registrarsi. Ecco, ho visto dei numeri recenti, sembra che in realtà le cose si siano un po' messe a posto e che già 3 milioni di americani si siano iscritti. Secondo le previsioni originarie, se tutto fosse andato per il meglio, gli iscritti in questo momento devono essere circa 4,2 milioni. Ecco, perché secondo te gli americani resistono? Perché questa è una cosa difficile da spiegare agli europei, agli italiani, che danno per scontato che il sistema sia, inevitabile, insomma. Sì, è molto difficile da spiegare, anche perché quasi tutti gli europei hanno dei sistemi sanitari nazionali che sono relativamente semplici, mentre l'America, bisogna dire, è una giungla tra qualche tipo di sistema pubblico che esiste, come il Medicare oltre i 65 anni, il Medicaid per i poveri, una fascia privilegiata che sono i dipendenti di grandi aziende che hanno delle buone polizze assicurative private anche se fanno parte del pacchetto retributivo. Poi c'è tutta quell'area, forse è lì che bisogna guardare con più attenzione per spiegare l'impopolarità di questa riforma, almeno inizialmente. L'area delle decine di milioni, si parla di 30 milioni di non assicurati, e anche lì dentro c'è un po' di tutto però, perché ci sono persone che non si potevano permettere l'assicurazione e forse la riforma Obama li sta aiutando. però tra quei 30 milioni di non assicurati finora, adesso lo devono essere perché è diventato obbligatorio, c'era anche una platea di persone giovani e sane che quindi, come dire, hanno interesse a fare i furbi, cioè mentre in un sistema europeo tutti sono obbligati a tassarsi per pagare i servizi medici, l'assistenza medica alla popolazione, è chiaro che in un paese dove invece c'è un sistema di tipo privatistico basato sulle assicurazioni private, dove ciascuno può scegliere chi è giovane e sano, per l'appunto ha interesse a chiamarsi fuori, perché comunque è una forma di tassa, no? Una tassa mutualistica, una tassa al servizio di chi è meno fortunato, ma è pur sempre una sorta di tassa. Gli americani non amano le tasse, nessuno le ama nel mondo, ma forse questo è un paese dove l'allergia alle tasse ha raggiunto punte più estreme, quindi questa è una delle ragioni ovviamente per cui Obamacare non ha avuto una partenza felice. Ecco, un'ultima cosa, Federico, il Presidente batterà probabilmente sul settore manifatturiero, ha già annunciato l'apertura di questi poli manifatturieri, ecco, c'è stato un attacco inatteso di Steve Rattner, che è un sostenitore del Presidente, un alleato, un democratico, e Rattner dice, beh, vi dico una cosa, il manifatturiero in realtà è una chimera, non funziona così bene come si dice che funzioni, perché paga molto meno di quello che pagava prima. La domanda che io ho per te, Federico, ma non è meglio avere uno stipendio magari un po' più basso, ma averlo piuttosto che essere disoccupati? Qual è, cosa c'è dietro questo intervento di Rattner, secondo te? Ma Rattner non ha torto, e non hai torto neanche tu, cioè è vero che è meglio avere un posto qualsiasi piuttosto che non averne, però è vero che si è un po' mitizzato questa rinascita del manifatturiero, questa reindustrializzazione dell'America, senza andare a guardare esattamente di che tipo di industria si tratta e che lavori offre. E sappiamo bene, perché c'entra di mezzo anche la Chrysler Fiat, che l'industria dell'auto per uscire dalla crisi ha siglato un patto con i sindacati che hanno accettato di fatto il doppio regime salariale. I vecchi operai ancora guadagnano bene, ma quelli, i giovani assunti, i neoassunti, quasi dimezzati gli stipendi. Questo tipo di ripresa economica spiega perché Obama è così impopolare. La ripresa c'è, ma non ha curato la questione delle diseguaglianze sociali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Proprio oggi, con l'America che si prepara a riflettere sul suo futuro, ci ha lasciato a 94 anni nella notte, qui a New York, Pete Seeger, uno dei colossi del folk americano, del movimento pacifista, una voce della coscienza che deputati, senatori, tutti noi in realtà dovremmo ascoltare guardando in avanti. Di Pete Seeger, l'immortale Where have all the flowers gone? Ma dove sono spariti i fiori? New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.